questo è l'inizio del tramonto dell'Occidente, perché adesso vi parlo un attimo, ma brevemente, di modo di considerare la conoscenza. Si può distinguere tre fasi la conoscenza. Parlo sempre come se fossimo di fronte alla parte bambina di noi che può capire. Il primo tipo di conoscenza è questa qua, A e B. Cioè A e B tutto sommato sono insieme, sono mischiati. Io quando sono molto piccolo non mi distingo bene da mia mamma, ho confusione, quindi questa è una conoscenza quasi, non è una vera conoscenza, è una preconoscenza. Poi abbiamo la conoscenza, che non ci viene considerata tale, che A e B sono diversi, io sono diverso da mia madre, sono separato da mia madre finalmente e non sono più, non mi confondo più. Poi c'è il terzo tipo di conoscenza, che è A distinto da B ma collegato a B, cioè io non sono mia madre, certo, ma sono collegato a mia madre, quindi io non sono mia madre ma sono anche mia madre per certi aspetti. Sarebbe meglio metterli al contrario, diciamo così, li riscrivo. Allora qui ci mettiamo la conoscenza, la preconoscenza, qui la conoscenza tipica dell'ego e qui la conoscenza che potremmo definire traspersonale. Mettetelo nella voglia di essere giovani e i conti tornano. Qui giù abbiamo la confusione delle parti interne, la zona più indifferenziata. In questa zona vi faccio gli esempi di conoscenza confusa. Il transfer, ogni forma di proiezione. E possiamo distinguere due forme di proiezione. Proiezione 1, io sono qua, tu sei lì, tra me e te si forma l'immagine di mia mamma e io proietto mia mamma su di te, quindi non vedo più te, ma vedo te attraverso il filtro dei tratti di mia mamma, quindi reagisco a te un po' come fossi mia mamma. Questa è la confusione, capite bene, perché io confondo questa immagine con una persona. Questo è il tipo di proiezione più noto. Poi ce n'è un altro, che è quest'altro, qui. Io sono qui, tu sei qui. Siccome e io amo il mare, penso che tutte le persone devono amare il mare, perché il mare è così amabile come possibile che tu non lo ami. E quindi penso che sicuramente tu ami il mare. Cioè, io proietto me su di te, ti vedo attraverso i miei occhi. Attraverso i miei valori. Okay. E quindi a volte, se io ti amo, e tu no. Se io mi guardo con i tuoi occhi, con i miei occhi, io guardo te, proietto il mio amore, tu devo dire, tu non ti accorgi che tu mi ami. Ci sono persone che ragionano così. Tu non mi puoi lasciare perché non ti accorgi che mi ami. Tu ci vai. No, non guarda che tu devi guardare la tua vita dentro. Vabbè, adesso fuori dagli scherzi. Questo tipo di proiezione, PNL, come si chiama? Lettura della mente. Lettura della mente. Io leggo la mente dell'altro. È molto comune ed è un modo che, attraverso il quale noi ci impediamo di conoscere l'altro, cioè continuiamo a conoscere solo noi stessi. Tu interpreti me come se io fossi te, per cui di sicuro se io sono te mi piace il tennis, mi piace rilassarmi al mare e così via, e rimani stupita se io dico di no, ma no, vuol dire che non è così, no. Sono le generalizzazioni, generalizziamo noi stessi sugli altri, no? Le nostre propensioni crediamo che ce l'abbiano tutti. Allora, vi ho detto tre tipi di conoscenze, questa per confusione, questa è per separazione, è la conoscenza che in Occidente è andata per la maggiore. Cioè noi conosciamo separandoci dal mondo, vivisezioniamo un animale, scopriamo come è fatto e riusciamo a capire questo animale. Questo tipo di conoscenza per separazione è una conoscenza che quasi sempre è al servizio dello sfruttamento. che se tu mi diventi un oggetto, cosa ci faccio un oggetto? L'utilizzo. L'altro tipo di conoscenza è una conoscenza che avviene per empatia, per, quasi per identità. Io non che trasferisco me su di te, ma divento te. Cioè davvero mi modifico così tanto, mi rendo così aperto che tu entri dentro di me o io entro dentro di te e capisco come essere fatto. Ma per far questo io mi devo svuotare, non devo più avere oggetti che proietto, attaccamenti, immagini, roba di questo tipo. Se vogliamo indicarlo in modo, un altro modo, potremmo dire che questa è una conoscenza prepersonale, prima di diventare persone, cioè capaci di prima di diventare. Questa la potremmo conoscere, la conoscenza che ha tipo di livello personale, e questa come potremmo chiamarla? Transpersonale. Questo tipo di conoscenza produce molti guai, la conoscenza di tipo 1, perché falsa conoscenza, veramente molto molto grave e quasi psicotica. Ma anche questo tipo di conoscenza produce molti molti guai, perché deforma quasi tutto, non proprio tutto, ma parecchio. L'unica conoscenza che non produce guai è questa, cioè la conoscenza che fa sì che io davvero comprendo la persona che accanto. Quindi, guardate un po', abbiamo parlato di consapevolezza. Ma per parlare di consapevolezza dovremmo in primo luogo fare quello che la filosofia occidentale non fa. La filosofia occidentale parla di conoscenza. Ma avete mai sentito nella filosofia occidentale parlare che la conoscenza dipende dallo stato di coscienza? No. Allora qui c'è uno stato di coscienza, qui c'è un altro, qui c'è un altro. Allora qui vedo le cose in modo estremamente distorto, quasi psicotico. Qui le vedo in modo cosiddetto normale, con cui poi vado a fare la spesa, pago le bollette della luce, vado a fare vacanze, vado a lavorare, rispondo al telefono. Qui ho la conoscenza profonda, cioè quella che anticamente si chiamava scienza in latino, jnana in sanscrito, gnosis credo, no? Indiana, sì. Jnana. Jnana, in sanscrito. E Jnana Yoga. Esatto. E c'è invece quella conoscenza, gnosis, in greco vuol dire conoscenza piena. Nella filosofia dello yoga si chiama conoscenza per identità. Il maestro yoga si fa così pulito come un cristallo e allora si fa permeabile a ciò che osserva. Diventa quella cosa. Se ci pensate bene, già dal primo modulo di PNL si esercitano le persone in misura molto limitata, cioè a entrare nella fisiologia dell'altra persona, a nel ricalcare il più possibile dell'altro, anche a livello del corpo, nel modo di respirare. Perché? Perché già quelli sono tutti facilitazioni per arrivare a cogliere il mondo come lo coglie l'altro. Se io voglio conoscere te in questo momento, come stai dentro di te, più io divento te, più lo conosco.